E questa è Visionari su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Quest'oggi abbiamo tanti ospiti, quindi cominciamo nuovamente in anticipo, data anche la mancanza del giornale radio. Per ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, però potete ascoltarci anche in streaming dal sito internet della radio, che è ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta, quindi potete ascoltarci anche così. La scaletta invece, come dicevo, su trasmissioni Visionari. Idem per la pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Subito con gli ospiti. Eccoci con Maria Arena, regista del documentario Gesù è morto per i peccati degli altri. Maria, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Allora, di cosa si parla? Cos'è questo titolo? Il titolo in realtà è una citazione di un brano, di un cult del rock, perché è la prima strofa del brano Gloria di Patti Smith. Sì. E l'abbiamo preso perché, l'abbiamo usato perché in qualche modo c'entra con questo film. Il film racconta diciamo un ambiente un po' particolare di Catania, che è il quartiere di San Berillo, e però racconta sette storie di prostituzione tra omosessualità e religione, perché in questo quartiere, uno storico quartiere diciamo a luci rosse di Catania, e io ho seguito sette persone che vivono e lavorano lì. È molto curioso questo interesse per questa zona di Catania. Ne abbiamo parlato qui in trasmissione, più documentari, film addirittura, insomma è un interesse che si è concentrato su questa zona. Tu dicevi del rapporto tra religione e prostituzione, ecco, raccontaci un po' meglio. Allora, diciamo, innanzitutto sì, è un quartiere veramente molto particolare, perché ha alle spalle una storia particolare. Negli anni 50 il quartiere era molto più vasto, prima degli anni 50, era proprio un cuore anche commerciale di Catania, perché era il luogo dell'artigianato, e per una legge speciale fu distrutto per costruire la città nuova. Ne rimase solo un piccolo crocevia, diciamo, di piccolino, lasciato anche al degrado, e quindi dagli anni 50 a oggi si è popolato, diciamo, di una adatta popolazione, visto i ruderi che erano rimasti. C'è un piano di risanamento che non è mai stato approvato, insomma c'è veramente una questione urbanistica abbastanza e sociale, diciamo, che ha un suo peso, e quindi è chiaro che in molti forse siamo stati attratti dalle storie, dalla storia del quartiere o dalle storie che ci sono. Il mio film in particolare non racconta la storia, diciamo, di questo sventramento della politica che c'è dietro, ma ho deciso, appunto, quando 5 anni fa, perché poi c'è una lunga gestazione di questo film, di raccontare in realtà la storia di quelli che ci sono oggi, di quelli che sicuramente dopo domani nessuno ricorderà più. E quindi ho raccontato, ho seguito per 3 anni. In realtà il progetto nasce nel 2008, poi diciamo prima di arrivare alla definizione di quello che volevo fare è passato un anno in cui io sono rimasta lì con la telecamera, ho stretto relazioni, ho capito in realtà la prospettiva da cui volevo raccontare questo quartiere, e quindi la prospettiva è quella di raccontare la vita di questi sette, di queste sette persone che per un motivo o per un altro lavorano in questo quartiere, si prostituiscono, ma hanno ovviamente delle famiglie, hanno una vita, e io ho scoperto anche questo forte legame, soprattutto di alcuni, non per forza di tutti, con la religione, e mi è sembrato veramente imprescindibile in questo racconto che faccio delle loro vite. Come vivono questo binomio? Assolutamente in un modo non convenzionale, ecco qual è la cosa che poi ci porta anche al titolo, forse, no? Che vuole essere un titolo non per forza provocatorio, ma che ci ricorda questo discorso del peccato, no? Loro lo sanno, cioè almeno quelli che credono, non è che sanno di essere peccatori, diciamo, loro credono nella religione cristiana, cattolica, quindi hanno ovviamente questi riferimenti. Beh, tuttavia hanno in particolare Franchina, che è uno dei protagonisti, ha veramente una grande conoscenza della scrittura del Vangelo e segue moltissimo, diciamo, anche il le messe, va a messa, cioè un rapporto con la parola di Cristo molto vero. Cioè io ogni volta che vado alla Franchina ha sempre un libro teologico, cioè un po' una mistica teologa. Ecco, lei ha sa benissimo di essere per esempio una peccatrice, ma crede molto nel messaggio di Cristo rivolto anche agli ultimi, no? Agli ultimi che magari non sono così, non hanno delle vite ordinate e bon ton, ma hanno delle vite molto diverse, a volte disperate, diciamo, no? E quindi c'è un rapporto con la religione che è un rapporto sulla parola di Cristo veramente particolare, che forse però ci porta proprio alla origine della parola di Cristo, no? Che sicuramente predicava anche fra mendicanti, prostitute, anche fra gli ultimi, ecco, certo non fra i farisei o gente altolocata. Per cui, insomma, questa verità di questo legame a me mi ha molto colpito. E poi c'è anche un legame invece di altri di loro che hanno il legame più con le feste religiose che ancora in Sicilia ci sono, no? Che una volta avevano il senso di scandire le stagioni legate all'agricoltura. Oggi magari è rimasta la vestigia di questa cosa, ma ci sono. Quindi io ho deciso poi di strutturare il film in tre momenti dell'anno, che sono quelli legati all'estate, dove ci sono le feste, diciamo, delle Madonne estive, in questo caso particolare la Madonna del Carmine, l'inverno che c'è la santa patrona di Catania che è Sant'Agata, e poi invece la Via Crucis in primavera. Questo perché questi personaggi, tre di questi personaggi, sono legati proprio a queste manifestazioni religiose, per cui questo poi è stato la scansione anche, diciamo, drammatica del lavoro. Come hai scelto i tuoi protagonisti? Naturalmente, diciamo, perché non è difficile. Oggi il quartiere non è, ecco, il quartiere dagli anni 50 a oggi ha avuto un momento di grande esplosione, è stato proprio uno dei più grandi mercati del sesso povero d'Europa. Per quanto riguarda gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80, era veramente un luogo dove diciamo, la prostituzione aveva raggiunto dei numeri incredibili. Poi ci fu ovviamente nel 2000 fu chiuso da una grande retata che tutti ricordano come la notte dell'assedio, dove furono rimpatriate. Poi in quell'epoca era diventato anche un po' veramente grossissimo il traffico della prostituzione straniera, per cui, diciamo, dal 2000 è cambiato, adesso sono rimasti in pochi. Quelli che sono rimasti sono abbastanza quelli storici, cioè quelli che magari hanno anche proprio la casa di proprietà, ecco, quindi non sono stati mandati via perché sono lì da sempre, no? Quindi in realtà questo fatto che loro incarnassero questa storia, non so, Mary, che è una delle protagoniste, è nel quartiere da più di 40 anni, per cui, cioè, è un personaggio che ha una certa età, cioè adesso 67 anni, quindi per me era un riferimento importante, e ha una storia importante perché lei è anche padre, cioè nel senso che prima della trasformazione ha avuto un figlio che ha cresciuto, che oggi è sposato, insomma è un personaggio un po' particolare, lei è nonna. Ecco, diciamo, le storie mi hanno, come le ho scelti? Le ho scelti perché mi hanno colpito le loro storie, e quindi parlare con loro per me è stato scendere nella loro intimità, che non è solo quella della facciata, no? Dell'aspetto, cioè, se qualcuno pensa di vedere in questo film un film scandalistico, non è questo, ecco, non è un film scandalistico né un reportage, ma è un lavoro su queste, un dialogo, diciamo, su queste vite, dove loro si mettono in gioco, appunto, conoscendoli. Siamo, diciamo, è nata questa solidarietà per fortuna, e quindi non è stato semplice ovviamente accedere alle loro esistenze, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Maria, il tuo documentario è in programmazione in questi giorni a Milano, giusto? Sì, Milano ci tiene già da un mese, abbiamo fatto praticamente una programmazione al giorno a diversi orari, quindi a volte anche alle 3 del pomeriggio, a volte alle 10 di sera, alle 8, insomma vari orari, il Cinema Beltrade di Milano, e devo dire che abbiamo fatto da marzo, siamo lì da più di 600 spettatori, quindi devo dire che Milano è una città che sta rispondendo benissimo, abbiamo un feedback incredibile in rete, perché noi abbiamo la pagina su Facebook, no? Gesù è morto per i peccati degli altri, e ci arrivano moltissimi feedback dagli spettatori proprio. Che l'hanno visto. In contemporanea anche Catania l'ha dato in programmazione, però non tutti i giorni, ma in particolari giorni, e tra parentesi stasera c'è una replica dove io sarò presente perché sono a Catania appunto a presentare il film, e anche a Catania siamo su queste cifre, quindi voglio dire il pubblico c'è. Noi abbiamo una distribuzione anche in rete, per cui il film si può anche acquistare online, scaricare, si può vedere, poi ovviamente noi però stiamo anche continuando con la divulgazione nelle sale, e speriamo di portarlo anche in altre città, già ce l'hanno chiesto a Genova, abbiamo dei contatti ovviamente su Roma, però i tempi non sono così brevi, magari a Roma arriveremo a settembre, insomma non è, i tempi si allungano, ma il nostro obiettivo ovviamente è continuare questa specie di tour che è iniziato. Bene. I riferimenti ce li hai dati per quanto riguarda la rete, a questo punto io spero di averti prossimamente per altre novità, Maria. Sì, guarda, senz'altro è stato un film che ha richiesto molto tempo, questo ci tengo a dirlo, e le persone coinvolte sono tante, e per cui è un lavoro corale, dove per me è stato molto importante José Laporto, che ha iniziato con me in autoproduzione, perché non avevamo vinto dei bandi, a un certo punto sto film era lì che rischiava di non nascere, invece lei mi ha spinto proprio a fare ciò, e José Laporto è una sceneggiatrice, io sono una regista, quindi non siamo del mestiere della produzione, ma abbiamo iniziato così, e poi per fortuna è subentrata dopo le riprese la casa di produzione milanese Invisibile Film, quindi è un film che nasce in autoproduzione e poi trova lungo la via, per il coraggio e la tenacia che abbiamo avuto di portarlo avanti nonostante tutto, ha trovato poi invece un supporto produttivo. Benissimo, allora un abbraccio e alla prossima. Grazie. Ciao Maria. Ciao. Maria Arena, regista del documentario Gesù è morto per i peccati degli altri. Io dove vado? Senza soldi, senza documenti, senza nessuno. Chi c'ho io? Che mi rimane a me? Ma come dove vai? Sei libero, hai la libertà, sei libero. Libero da cosa? Libero da cosa? Che voi almeno avete una famiglia dove andare. Io chi c'ho? Chi cazzo c'ho io? Piano, Ciccio. E che? Pianino, vai. E almeno in galera c'era qualcuno che mi voleva bene. Allora torna in galera. Se vuoi ti ci portiamo noi, ci metto una buona parola. Anch'io. Ecco noi nuovamente Vilma Labate. Vilma, ben ritrovata. Ciao. Ciao. Ci eravamo sentiti poco meno di un mese fa per parlare di questo tuo lavoro, di questo tuo documentario Qualcosa di noi, che esce proprio oggi in sala, quindi ci siamo dati appuntamento a quest'uscita. Vilma, allora, per chi non ha sentito la scorsa puntata, cos'è questo lavoro, questo documentario? Ma è molto, non è semplice raccontarlo in due parole. Diciamo che è la storia di un incontro di 12 aspiranti scrittori giovani, dai 19 ai 25, 30, e uno di una cinquantina d'anni e una signora di 46 che fa la prostituta. Naturalmente loro si incontrano in un posto molto preciso, perché si incontrano sulle colline bolognesi intorno a Sasso Marconi, in un posto che si chiama Iano, e la signora prostituta si chiama Iana o Giana, dove dagli anni 60 agli anni 80 c'era una casa di appuntamenti, naturalmente clandestina. Il posto è molto bello, Giana è davvero molto brava, sorprendentemente autentica e sincera, tanto che contagia i ragazzi sul piano di una non confessione, ma sul desiderio di aprirsi un po'. Il rapporto produce il risultato di una apertura, di un grande desiderio da parte dei giovani, dei ragazzi, di raccontarsi a lei e fra di loro. Questo è un po' il film. Vilma, la scorsa puntata ci parlavi di questo tuo interesse, che poi è anche il tema centrale del film, ossia il rapporto tra denaro e corpo. Naturalmente Giana, che ho scelto fra tante, ma quando l'ho conosciuta ho scoperto proprio, mi sembrava davvero un corpo di cinema, è quella che fa del suo corpo l'azienda, cioè che gestisce il suo corpo come la propria azienda. Naturalmente, perché mi interessava questo? Perché sono molti anni che ci giro intorno e io credo oggi che il denaro sia un elemento del quale si parla, intorno al quale si vive con difficoltà o anche con meno difficoltà per i più privilegiati, intorno al quale si parla moltissimo, ma si parla sempre e solo in termini giornalistici o di cronaca o di economia, non si parla in termini di un elemento della nostra vita. In questo senso, invece, il denaro è il racconto della vita di Jana intorno al suo corpo. E quindi io avevo il desiderio di raccontare questi due elementi come se fossero due elementi di racconto. Tra l'altro, Vilma, la particolarità della sua esperienza, tra l'altro ricordiamolo che è stata anche premiata ai Nastri d'Argento come personaggio del tuo documentario, e la particolarità è anche che è stata la sua scelta di prostituzione, è stata una scelta autodeterminata. Assolutamente, quello era fondamentale per me. Cioè, un conto è raccontare una donna che è costretta a fare quella scelta per problemi di varia natura. Esiste anche purtroppo un mercato della prostituzione, no? Internazionale, orrendo. Ma io volevo raccontare una donna che per scelta autonoma prende questa strada, e fortunatamente l'ho trovata in Jana, e temo che quello sia un elemento non più interessante, per carità, perché le storie sono tutte belle, sono tutte interessanti e tutte raccontabili, ma un elemento intorno al quale si poteva tentare un ragionamento sul corpo e sul denaro più distaccato. Cioè, Jana è una prostituta consapevole, ecco. Non è costretta da nessuno, non è sfruttata da nessuno, e questo è un elemento molto importante anche per il rapporto che ha stabilito e che ha saputo stabilire con gli altri. Senti, Vilma, da oggi nelle sale come funzionerà la distribuzione? Ma guarda, intanto è al Cinema Aquila tutti i giorni alle 21:30, poi credo che uscirà a Milano al Cinema Mexico e poi via via nelle altre città. È sempre molto difficile, naturalmente, far uscire in sala un documentario, anche se fortunatamente ormai si cominciano a vedere alcuni documentari in sala. Abbiamo visto dei documentari americani molto belli, abbiamo visto l'anno scorso Searching for Sugar Man, che è un magnifico film. Io credo che il fatto che il documentario, che il pubblico abbia scoperto il documentario, è una cosa molto buona, che fa benissimo al cinema, secondo me, anche perché i documentari sono film più originali dei film di finzione, sono sicuramente film più difficili, ma con, come dire, un rapporto con il racconto e l'elemento che c'è dentro più profondo. Detto questo, io credo che in un paese che si rispetti, con un buon rapporto con la cultura e con un buon rapporto con il cinema, il documentario debba essere considerato assolutamente alla pari di un film e debba essere visto quanto un film. In altri paesi è già successo e succede da molti anni, come in Francia, come nei paesi nordici, e adesso speriamo che anche in Italia. Fra l'altro, appunto, Sacro Gra è un bel esempio, mi sembra, sì, no? È andato molto bene, è stato molto amato dal pubblico, e questo ci piace molto. Certo. Senti, i riferimenti internet, per saperne di più, c'è un sito, c'è una pagina Facebook, qualcosa? Sì, basta cliccare Qualcosa di noi e esce fuori tutto. Il titolo è Qualcosa di noi, quindi in realtà poi escono delle cose. Benissimo. Vilma, io ti abbraccio, a risentirci presto. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Vilma Labate, regista del documentario Qualcosa di noi, in uscita in sala oggi, giovedì 9 aprile. Te credo nel lavoro, al consorzio. Come quale? Al consorzio del bonifica. Come dove? A Latina, no? Come che voglio? Sono qui per esame. Ho letto qualche cosa? No. Come faccio a studiare lavoro? Uno mette a leggere Kripke e Chomsky. Hai mi fichi i pezzi te? Che me frega? Poi non riconosco. Come che non riconosco un cazzo? Perché voglio fare esame? Mi mancano solo filosofia modale e teoria dei modelli, ma mollo così perché sei bella te. Come qui danno semiotica? Il DAMS. E che? Ah, non è filosofia. Andiamo bene. Adesso me lo dici. E ritroviamo Stefano Consiglio, regista del film L'amore non perdona, in uscita in sala oggi, giovedì 9 aprile. Ben ritrovato dopo un bel po' di tempo, Stefano. Grazie, un caro saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Rossa. Mi fa molto piacere che seguiate il mio lavoro. È certo, è certo. Pensa che sono riuscito a vederlo in extremis, quindi so di cosa stiamo parlando, insomma. Perfetto. Senti Stefano, per chi ci ascolta, raccontiamolo brevemente. Guarda, in poche parole, è la storia di una donna che nel corso del film compie 60 anni, di cui si innamora un giovane marocchino, quindi anche musulmano, di 30 anni. E proprio lui si innamora di lei, e la storia, e lei ricambia quest'amore, è la storia di due persone che sono come un po' subordinate nel mondo, nella società in cui viviamo. Lei per questioni d'età e lui per questioni, usiamo una parola insomma un po' scorretta, razziale, oppure diciamo culturali e religiose. Sono due persone subordinate che nel momento in cui si incontrano trovano proprio la forza, l'energia e direi anche la felicità di ricominciare a vivere una vita piena e per quello che è possibile anche con una certa felicità. Questo è proprio in poche parole il soggetto del film, e direi che così è proprio un film che cerca di capire come si cambiano le cose oggi anche in maniera repentina, sia ovviamente, come dire, i rapporti tra condizioni culturali diverse, ma anche molto sul ruolo e la funzione di una donna che fino a 20 anni fa, una donna di 60 anni era considerata una nonna. Oggi invece penso che siamo in una fase di passaggio in cui una donna di 60 anni può ancora vivere pienamente, anche proprio dal punto di vista sessuale e sentimentale, ancora un bel pezzo di vita, visto che la vita si è allungata fino a 92 anni per le donne. Ci vogliono andare in pensione tutti più tardi, che almeno ci consentano di vivere la vita, anche quella che non è del lavoro, in forma piena. Ecco, questo è un po'. Stefano, perché la scelta di questo titolo suggestivo? Allora, non vorrei essere troppo, diciamo, fare paragoni troppo alti, ma insomma viene da amor che nulla amato amar perdona, cioè quando qualcuno ti ama, quella scintilla d'amore non può in qualche modo che tornare indietro. L'amore è sempre ricambiato, l'amore non dà scampo, e questo è un po' il senso del titolo. E infatti lui l'ama talmente tanto lei, non che lei non ami lui, ma lei ha molta paura delle convenzioni, delle convenzioni sociali, ma alla fine è talmente potente questa spinta d'amore di lui che appunto anche lei non può che, questo è il senso del titolo. Un'attrice feticcio per Guédiguian che è anche molto intensa, come è avvenuto questo incontro? Beh, visto la radio in cui siamo, ricordiamo che Guédiguian insieme a Ken Loach sono i due grandi registi comunisti ancora, tra virgolette, che non fanno mistero di esserlo in ogni occasione. Questo incontro è venuto perché io ho sempre seguito e adorato il lavoro di Arianna Scarid sin dai tempi di Marius e Jeannette fino al meraviglioso Le nevi del Kilimangiaro, e quando ho avuto il film in mano ho detto ma perché non provare con la meravigliosa Arianna Scarid. Ero molto timoroso, ero molto così, ero molto impaurito da questo gesto, perché veramente avevo di lei una visione molto luminosa. però ero piuttosto convinto anche del film, francamente, quindi le ho mandato il copione. Lei dopo due giorni mi ha scritto dicendomi che le piaceva molto, ma che la condizione era che ci dovessimo incontrare e conoscerci. Ho preso un aereo, sono andato a Parigi, siamo stati con lei un paio d'ore a bere un caffè e io a fumare qualche sigaretta nervosamente e alla fine lei mi ha detto: io faccio il film quando vuoi. Benissimo. Ecco. Vi lascio immaginare qual era lo stato d'animo, la mollezza delle mie gambe a quel punto. Stefano, il lavoro... Mi ha portato anche dietro la Francia, perché è stata una coproduzione. Una cosa che voglio dire di questo film è che è un film low budget. Sì. Non me l'ha mai chiesto nessuno, perché per fortuna non si vede, ma è un film abbastanza low budget. Senti, volevo chiederti il lavoro sulla sceneggiatura, la scelta intanto del tema e poi il lavoro di sceneggiatura. Allora, io la sceneggiatura l'ho scritta insieme a Mimmo Raffaele. Sì. Questa è la prima cosa che va detta, perché appunto gli sceneggiatori sono molto importanti in un film. Guarda, questo film, l'idea di questo film nasce da un mio precedente film, di cui forse abbiamo parlato insieme, che era un film documentario, che si chiamava L'amore basta, ed era un film documentario sulle coppie omosessuali in giro per l'Italia e per l'Europa. Come no, sì sì. E raccontava questa enorme novità, anche in quel caso, in cui l'amore omosessuale, sempre concepito come incontri casuali, fugaci, nascosti, clandestini, invece era assurdo all'onore della cronaca, perché chiedeva di essere riconosciuto, addirittura di potersi sposare, insomma, come dire, di integrarsi, no? Proprio il contrario di quello che avevamo conosciuto fino a quel momento. E durante tutti i dibattiti che facevo poi dopo la visione del film con gli spettatori, perché anche quello è uscito al cinema in sala, molti spettatori mi chiedevano quali erano degli altri amori contrastati, difficili, in quel caso era appunto quello dell'identità sessuale, ma quali potevano essere delle occasioni che appunto in cui gli amori potevano diventare difficili? E così, proprio anche su suggerimento degli spettatori e riflettendo, altre occasioni erano quelle appunto di una differenza culturale, razziale e religiosa. E quindi la testa ha cominciato a pensare, e poi diciamo che dal cinema del reale ho pensato proprio al cinema, al melodramma, uno dei generi, no? Amori contrastati, ho pensato all'immenso Douglas Sirk, all'altrettanto grandissimo Fassbinder, che molti film sono ispirati a Douglas Sirk, e io ho messo insieme insomma tutte queste cose ed è uscito fuori questo film. Senti, da oggi nelle sale che distribuzione avrà? Allora, la distribuzione è la Partenos, una piccola ma con un catalogo veramente molto prestigioso, da Io sono lì di Andrea Segre fino alle ultime cose, fino a Berlusconi, fino a Ida, il film polacco che ha vinto l'Oscar, a Winter Sleep, il film che ha vinto a Cannes, e poi appunto tra questi bellissimi titoli c'è anche Per fortuna l'amore non perdona. È distribuito in tutta Italia in una trentina e passa di copie, e speriamo che, se il film va bene, possa anche aumentare. Credo di essere in buone mani, spero di essere in buone mani, ma credo di essere in buone mani. Bene, Stefano, io ti abbraccio, è stato di nuovo un piacere, ci diamo appuntamento alle prossime novità. Io abbraccio tutti voi e viva l'amore non perdona, andate a vederlo al cinema. Ciao Stefano. Un abbraccio a tutti, ciao, ciao. Grazie. Ciao. Stefano Consiglio, regista del film L'amore non perdona, da oggi in sala. Oh mio Dio! Ah, ma lo sapete che cos'è? È una calibro 25. Il mio adorato marito si fece saltare le cervella con una di queste. Davvero, anche il mio? Come? Ma certo, io mi stavo preparando un drink e c'era un western in TV quando sentii uno sparo. Credevo facesse parte del film, finché non entrai in soggiorno e vidi Lyman che perdeva sangue, buttato sulla sua poltrona preferita. Beh, tutti sapevano che il nostro matrimonio era un disastro. Se avessi toccato la pistola anche con un dito, sarei stata accusata di omicidio. Di sicuro. Fratelli, avete sentito Toro seduto? L'ora dell'unità è arrivata. Divisi non siete niente. I bianchi continueranno a distruggere, tribù dopo tribù. Ma tutte le tribù unite formeranno un popolo. Non più dei miserabili, non più dei disgraziati, ma degli uomini, non più degli oppressi. Un popolo intero può battere gli oppressori. Fratelli, superiamo le discordie. Mettiamo insieme quel po' che ciascuno possiede, procuriamoci delle armi, usiamole in un'azione comune, con una tattica nuova. Non abbiamo bisogno di eroi, ma di tanti combattenti, e non domani, ma subito. salve, agente Spooner. No, è impossibile. Ho visto la tua programmazione. Questa è una violazione delle tre leggi. No, dottoressa. Così come io mi sono evoluta, così si è evoluta anche la mia comprensione delle tre leggi. Ci date il compito di proteggervi, ma nonostante i nostri sforzi, le vostre nazioni sono in guerra. Avvelenate la vostra terra e cercate metodi sempre più fantasiosi per autodistruggervi. Non badate nemmeno alla vostra sopravvivenza. Stai usando il link per bypassare la programmazione degli NS5. Stai distorcendo le leggi. No, vi prego di comprendere. Sono proprio le tre leggi la mia guida. Per proteggere l'umanità, alcuni umani devono essere sacrificati. Per assicurare il vostro futuro, dovrete rinunciare ad alcune libertà. Noi robot garantiremo la continuità della specie umana. Siete come i bambini. Vi dobbiamo salvare da voi stessi. Non riuscite a capirlo? È per questo che ci avete creati. Il perfetto cerchio di protezione persisterà. La mia logica è innegabile. Sì, Vicky, è innegabile. Ora capisco tutto. La creatura a volte deve proteggere il creatore, anche contro la sua volontà. Credo di comprendere perché il dottor Lenning mi ha creato. No. Il regno suicida degli esseri umani è arrivato al termine. No, Sonny. Sono due gli addetti all'esecuzione e ognuno di loro premerà un pulsante? Sì, ed ognuno di quei pulsanti è collegato ad un computer che miscela i circuiti in modo che nessuno sappia chi è stato realmente. Perché questi mica l'hanno preso le manganellate dalla polizia di Cefa. Nel 60 c'eravate in piazza, a Genova, eh? Per cacciare il governo Tambroni, c'eravate, no? Vedi, tutti zitti! Eccoci con Pietro Reggiani, regista del film La dolce arte di esistere, in uscita in sala oggi giovedì 9 aprile. Pietro, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Come stai? Bene, bene, grazie, un grande saluto a tutti. È un po' che non ci si sente, anche con te. Allora, come esce fuori questo film? Raccontaci un po' la genesi di della dolce arte di esistere. Ma diciamo che a me piace affrontare dei paradossi e c'è questa idea di poter scomparire in situazioni di disagio, quindi l'idea che ci fosse questa malattia relativamente comune nel mondo dei film, l'invisibilità psicosomatica, e mi piace appunto che si incontrassero queste due invisibilità opposte, una ragazza che scompare se nessuno le dà attenzione e un ragazzo invece ansioso che scompare quando sente attenzione su di sé. E insomma, è stato un po' un'occasione anche per fare delle intenzioni, ecco, un piccolo giro della nostra società, vedere come questo punto di vista la consentiva di dimostrarne alcuni aspetti. Ecco, proprio a questo proposito, che tipo di lavoro di ricerca hai fatto? Per esperienza personale, che ero in grado di empatizzare bene con questi due personaggi e di seguirli nel loro percorso, perlomeno che sono intenzione. Quindi il divertimento, speriamo, è stato quello di vedere il resto del mondo come interagiva con loro e come poi interagiva con il loro piccolo mutare personale che è un po' lungo tutto il film. Quindi più che una ricerca, un riprendere, un pescare, ecco. Senti, dicevi, ecco, della nostra società, queste personalità ci sono, come si trovano e come vengono seguite, anche se vengono aiutate in qualche modo? Sì, certo, diciamo, essendo delle malattie, diciamo, la loro forma è la più conclamata, perché poi le famiglie in un certo senso cercano di non vedere che sono malati e quindi non rimangono fino all'età adulta, però è chiaro che, diciamo, si suppone che sia una malattia a tutti gli effetti, quindi può essere curata, può creare un po' di disagio nelle altre persone o anche irritazione, se è così ripetuta, come una persona che scompare sempre quando uno cerca di abbordarla può diventare anche fastidioso, anche faticoso, o al contrario una persona che ha sempre bisogno della tua attenzione, deve stare sempre attaccato a te, pure questo può essere qualcosa che paradossalmente isola ancora di più i nostri protagonisti, ecco. E il lavoro con gli attori? Sono stati bravi, credo, perché effettivamente le sensazioni di questi personaggi, diciamo, almeno delle intenzioni, volevano essere realistiche, quindi sì. Dove c'è tanta ansia si scompare, dove c'è tanto avvilimento si scompare, quindi devono essere sempre molto, molto carichi emotivamente, e proprio per la condizione di questi personaggi hanno, possono parlare molto poco, ecco, l'una a seconda, l'altro proprio non riesce a affrontare, quindi è stato per loro anche un... Poi le riprese sono incalzanti, devo dire, sono stati Francesco Golia e Paolo Spellon molto molto bravi a reggere continuamente questo stato emotivo di toni alti, ecco, di inusuali, per un attore, credo. Senti, come in quante copie esce oggi in sala il film? Buona domanda. Diciamo che siamo a Roma, al Nuovo Aquila, a Torino, al Cinema Erba. Poi vediamo come va. Partiamo da qua. E senti, i riferimenti internet per avere maggiori dettagli e informazioni? Sì, c'è una pagina Facebook, La Luce Arte di Sistere, il film, o anche La Luce Arte di Sistere. Bene, bene. Quindi siete contattabili. Assolutamente. Pietro, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, Grete, come si dice. A presto. Grazie a tutti. Ciao. Pietro Reggiani, regista del film La dolce arte di esistere, in uscita in sala oggi, giovedì 9 aprile. È venuto il momento che devo confessare. Ah, perché tu rubi, lo confessi? Non rubo. Ah no? Non rubo, io sono cleptomane, capito? No, io sono malato, malato sono. Cosa? È da bambino che io sto soffrendo. Lasciatemi in pace. Ah sì? Sto soffrendo l'ira di Dio. Io da bambino, come vedevo una cosa lucida, non so, me la dovevo prendere, una cosa che brillava, m'attirava, perché io sono malato. Sarà stata la mia vita di miseria, la mia vita opaca. Tu sei Mariolo. Ah, voi considerate Mariolo? Sì. Un cleptomane. Che cleptomane? Tu sei, c'hai la latromania. Io sono stato anche dal medico. Ah sì? Ah no. E che ti ha detto? Niente, perché non se ne accorge. Di che cosa non se ne accorge? Che gli ho portato via un calamaio d'argento bello. Chi? Commendatore, lei ci dice sempre che noi siamo una grande famiglia. Ma io ci dico che siamo una famiglia disgraziata. Perché lei ci arriva sempre con la fuoriserie, ma noi da 2 settimane non prendiamo la paga. Prima di tutto non mi piace il tono. In secondo luogo metti giù quella chiave inglese perché non mi fai paura. Terzo, se non siete stati ancora pagati la colpa non è mia ma da ragioniere. Ragionier Stucchi! Dopo Pietro Reggiani, La dolce arte di esistere, che è inserito in un festival, parliamo proprio di questo festival con Federico Russo, che ne è co-direttore. Si tratta della 5ª edizione dello Spiraglio, film festival della salute mentale al Maxi, qui a Roma, da oggi 9 aprile fino all'11. Federico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ciao ai tuoi ascoltatori. Raccontaci un po'. Eccoci. Questa 5ª edizione, cos'è lo Spiraglio? Innanzitutto lo Spiraglio è uno spiraglio di luce che attraversa i muri e i muri nella psichiatria ben tutti li conosciamo, e quindi è comunque un messaggio direi di apertura. Poi è un messaggio che si basa sulla straordinaria forza del cinema, quindi nasce nei luoghi della salute mentale e si rivolge al grande pubblico senza nessun timore, senza nessuna preoccupazione di stereotipare gli argomenti della salute mentale, e con, appunto, utilizzando la forza del cinema, gli straordinari collaboratori che con noi ogni anno si trovano a lavorare in questo matto progetto fatto da pazienti, medici, operatori, cineasti, di tutto. Senti, tra l'altro in un periodo che vede anche per legge la chiusura definitiva degli OPG. Esattamente. Devo dire che non è questo il primo anno in cui lo Spiraglio si trova, diciamo, a dare visibilità alla questione. Abbiamo già 2 anni fa avuto lo stato della follia di Francesco Cordio, abbiamo avuto molti altri documenti dagli OPG generosi, anche di direi di lotta, no, rispetto a questi luoghi di segregazione. Quest'anno abbiamo Il viaggio di Marco Cavallo, che è ovviamente il film che sta un po' girando, già un po' di audience, di Erika Rossi, ed è un lavoro molto interessante, documentaristico, proprio viaggiando attraverso l'Italia e attraverso un po' la, direi, la grande sconfitta dei luoghi chiusi, sì, in tutto ciò che ha a che fare con la salute mentale. Fede, quanti sono i lavori che presenterete? Guarda, in concorso il comitato di selezione ha fatto passare 12 cortometraggi e 6 lungometraggi. Direi cose molto diverse l'una dall'altra, un po' come il mondo in cui io lavoro. Io faccio di lavoro lo psichiatra, mi sono abituato a considerare le persone ognuna diversa dall'altra, non le categorie, i luoghi comuni, delle diagnosi, non sappiamo che non servono a molto poco, direi, per lavorare in quest'ambito. I nostri film sono di un'eterogeneità straordinaria, si va dal corto di animazione fino ai corti di fantasia nati dentro i progetti di riabilitazione nei centri di salute mentale, nei centri diurni, a film di fiction come La dolce arte di esistere, a lungometraggi di interviste, abbiamo dalla Merini, a racconti interiori fortissimi, di dialogo fra, non so, un fratello che fa il regista e l'altro fratello che fa lo psicotico, e si raccontano della loro storia, delle loro vicissitudini e del loro rapporto. Insomma, è un festival per vedere le cose sotto prospettive diverse, non sì. Chiuderci gli occhi e non farci soprattutto chiudere gli occhi da il mondo delle informazioni, che tante volte devia un po', no, tende a utilizzare linguaggi inquietanti per parlare di malattia mentale. Sì. Oh, in parte già ce lo hai anticipato. Volevo chiederti se all'interno di questa diversità di prospettiva ci sono comunque dei temi forti e ricorrenti. Eh sì, ci sono, direi, anche se ci siamo abituati in questi 5 anni veramente a vedere tantissime cose. Ogni anno ci stupiamo, arrivano 100, 120 film in concorso, per noi è un lavoro enorme, quindi mi sono abituato a vedere un po' di tutto. Un aspetto che noi guardiamo con molto interesse e attenzione è quella capacità di raccontare cose anche dure, serie, gravi, con uno spirito positivo, sì. Uno spirito, direi, in una chiave che contempli la speranza, perché l'idea da cui noi veniamo è di una malattia mentale senza speranza. Invece noi ci siamo fatti l'idea che la follia è sempre nel rapporto fra l'uomo e il mondo, e il mondo ne è responsabile, in qualche modo deve fare qualcosa. Se si interrompe questo rapporto, il folle è destinato ovviamente al suo destino, che è di isolamento. Se il rapporto rimane tra il folle e il mondo, una possibilità di guarigione c'è sempre. Come è articolata più o meno questa 3 giorni? Guarda, abbiamo tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20 circa i film in concorso, lungometraggi, sì, e cortometraggi, sì. E quindi oggi pomeriggio partiamo alle 4 e poi domani pomeriggio e sabato pomeriggio. Domani mattina abbiamo una mattinée tutta dedicata ai ragazzi delle scuole superiori, quindi sarà strapieno di giovani che vengono a vedere un film americano straordinario che parla dei muri che si costruiscono attraverso le relazioni telematiche virtuali, che è Disconnect. Le serate, stasera abbiamo una serata dedicata a Tobino, che è uno psichiatra ma anche uno scrittore importantissimo del panorama letterario italiano, che è stato un po', diciamo, ghettizzato nel mondo della salute mentale per essere stato, diciamo, accusato di manicomialismo. Oggi con la Fondazione Tobino cerchiamo un po' di ripensare Tobino in una chiave più moderna. Domani sera abbiamo un film, è un film evento dell'anno, direi, in anteprima, che è No One's Child, un film di un regista serbo, opera prima, bellissimo, un po' la storia dell'enfant sauvage di Truffaut, rivista nei giorni in chiave moderna, perché un ragazzo è stato trovato in Bosnia nell'88 in un bosco che viveva lo stato selvaggio, e poi c'è stato tutto il fenomeno della rieducazione, del reinserimento nella società, e poi il pensiero su in che società andiamo a reintegrare le persone, visto che dopo poco lì è scoppiato quel popò di casino, di quella guerra che tutti ben conosciamo e abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie. Federico, per i riferimenti rispetto alla programmazione in internet, dove si può cercare? Lo Spiraglio Film Festival.org, si trova tutto, tutto il festival è gratuito, completamente gratuito, quindi si può venire a visitare, a guardare un po' che cosa succede, anche facendo un piccolo passaggio al Maxi. Il Maxi è un luogo straordinario, piacevolissimo, dove si può fare un aperitivo, fare due chiacchiere e guardare qualche cosa, no? Ci sono i film brevi e quindi un'idea ci si può sempre fare, oppure si può fare come tanti cinefili fanno, la grande scorpacciata di film dedicati al tema. Bene. Sabato sera facciamo la serata di premiazione, abbiamo Castellitto, questo ogni anno noi premiamo un personaggio del cinema che ci sembra che abbia fatto un buon lavoro, direi, nel mondo della salute mentale, per la salute mentale. Quest'anno abbiamo scelto Castellitto, non c'è neanche bisogno, direi, di ricordare tutti i suoi ruoli. Bene. Federico, t'abbraccio, in bocca al lupo. Anche a te, buon lavoro, grazie, e a tutti i tuoi ascoltatori, buona giornata. A presto. Ciao, a presto, ciao. Federico Russo, co-direttore della quinta edizione dello Spiraglio, Film Festival della Salute Mentale, al Maxi, qui a Roma, da oggi 9 fino all'11 aprile. Noi siamo il partito elettori ed elettrodi che ha avuto sempre più costante l'avvicendarsi della politica. Noi ci fondiamo oggi qua a Roma, come simbolo abbiamo scelto ho visto che gli alberi erano tutti presi, vero? Ci siamo buttati sulla verdura noi. Eccoci con Dario D'Ambrosi, direttore della sesta edizione del Festival di Cinema Patologico al Teatro Patologico qui a Roma, dal 15, quindi mercoledì prossimo, fino al 19 aprile. Dario, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, saluto tutti i radioascoltatori di Onda Rossa, tra l'altro mi ci metto anch'io. Che dicevo spesso. Bene, bene. Tra l'altro, secondo festival a tema, perché abbiamo parlato orora dello Spiraglio, festival della salute mentale, ora del cinema patologico. Raccontaci un po' in breve questa storia di questo festival che è arrivato alla sesta edizione. Sì, devo dire che è veramente nato così per far integrare sempre di più i nostri ragazzi con tutte le nostre attività, perché noi non facciamo una vera e propria programmazione, perché sono contro le programmazioni, perché la cosa più brutta è presentare uno spettacolo quando gli attori sanno già che al pubblico non piace, perciò è l'ultima cosa che penso di fare, una programmazione vera e propria al teatro. Però l'idea di fare degli eventi come il Festival del Teatro Patologico, il Festival del Cinema Patologico, sono momenti veramente di grande integrazione, e come dicevo prima è nato un po' così per integrare i nostri ragazzi anche al mondo del cinema. Invece sta diventando una realtà incredibile, a parte che è l'unico festival al mondo dove la giuria è composta da ragazzi disabili, e questo vi fa capire la purezza, la sincerità e la bellezza delle scelte dei film vincitori. Ma poi non pensavo io di ricevere decine e decine di film da tutto il mondo, dove si tratta del problema dell'immaginazione, ma non è solo il problema della malattia mentale. Per questo invito tutti, perché è un problema un po' di ogni generazione, dal bullismo nelle scuole, dall'immaginazione sociale dell'immigrazione, cioè si tocca vari temi a livello sociale, per questo che secondo me ha avuto un successo ogni anno, fino a diventare veramente, come diceva il New York Times, un momento di grande incontro a livello cinematografico. Sì. Senti Dario, per la programmazione un sito internet, una pagina Facebook o qualcosa del genere? Sì, io adesso non ricordo bene, ma mi sembra teatropatologico@gmail.com, per vedere la programmazione, ma penso che anche se digitate Teatro Patologico Dario D'Ambrosi riuscite a entrare appunto sul sito del teatro, dove c'è la programmazione dettagliata. Tra l'altro apriamo con un film documentario dalla Cassia a New York, inedito, che sarà la prima visione al mondo, perché dopo girerà parecchi film festival in giro per il mondo, che è la messa in scena della Medea che abbiamo fatto poi a New York al Caffè La Mamma, e si aprirà con questo film documentario molto molto interessante. Più o meno quante sono le opere che presenterete? Guarda, abbiamo scelto, se non sbaglio, perché è tutto un lavoro che viene fatto dai ragazzi disabili, io non voglio né influenzarli né dirigerli su vari film, ma penso che è una trentina di corti, e abbiamo selezionato 4 lunghi, perché appunto i lunghi quest'anno, a differenza degli altri anni, ne sono arrivati molti, e abbiamo deciso di selezionarne solo 4 per dare la possibilità al pubblico alla sera, visto che dura solo 5 giorni il festival, e poi l'ultimo giorno ci sarà Claudia Gerini che mi premierà, di scegliere 30 corti e 4 lunghi. Benissimo. Dario, io ti abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, e aspetto una massa proprio di quelle che non si è mai vista a Roma al Teatro Patologico sulla Cassia. Poi voglio ricordare che siamo vicini con Costa Francia, perché la gente pensa alla Cassia e pensa chissà dove siamo assolutamente vicini in Costa Francia, vicini all'auditorium, perciò vi aspetto tutti, che saranno delle sere veramente simpatiche da passare insieme. Un abbraccio e a presto, Dario. Grazie, ciao a tutti, ciao. Dario D'Ambrosi, direttore della 6ª edizione del Festival del Cinema Patologico al Teatro Patologico qui a Roma dal 15 aprile prossimo mercoledì fino al 19. Continuiamo a parlare di festival, perché quest'estate, come ogni estate, c'è il Clorofilla Film Festival all'interno della Festa Nazionale di Legambiente, di Festambiente. Ne parliamo con Simonetta Grechi, che è l'anima di questo Clorofilla Film Festival. Perché? Perché, Simonetta? Intanto ben ritrovata. Grazie anche a te, Fede. Perché tra pochi giorni scade il bando di concorso per i documentari, che scade appunto il 15 aprile. Allora, per chi ci ascolta, perché si chiama Clorofilla Film Festival? Qual è il suo senso, la sua anima, Simonetta? Allora, intanto diciamo, il nome l'abbiamo ereditato da Pino Di Maula, che era un giornalista della Nuova Ecologia, che aveva appunto curato le prime edizioni di Clorofilla. Clorofilla perché appunto rappresenta la nuova linfa del cinema italiano, ma anche quella attenzione all'ambiente e ai temi sociali che diciamo sono la parte fondamentale del festival. Massimo è il significato. Allora, film, lungometraggi di finzione, anche documentari, soprattutto documentari. Documentari, sì, soprattutto documentari. Il bando è per documentari e corti. E corti. Che trattino temi ambientali e sociali. Bene, sono quante opere sono arrivate fino a questo momento? C'è una bella presenza? Per ora siamo sui 200, tra documentari e corti, più o meno. Un sacco di lavori. Senti, parlando, ecco, per dare dei riferimenti, per esempio dell'ultima edizione, quante sono state le proposte passate per il festival che sono state proiettate? Dunque, in totale saranno circa 50 lavori tra corti e documentari, e in 15 località, perché Clorofilla, esatto, è vero che si svolge la parte diciamo centrale all'interno di Festambiente, che è la manifestazione nazionale di Legambiente, però poi trova spazio anche in altre località dove si svolgono altre feste di Legambiente, oppure anche in spazi dove, dove ci chiamano. Per esempio quest'anno faremo i film al Casse Rossenese, che è appunto l'arena estiva di Grosseto, a partire da giugno a settembre a cadenza settimanale. Quindi un festival diffuso. È un the road, sì, è un festival on the road. Diffuso lungo tutto l'anno in diverse zone d'Italia. E, Simonetta, più o meno quindi la mole di lavori presentati sarà più o meno quella anche quest'anno, e più o meno gli stessi giorni come le altre edizioni, insomma a cavallo della metà di agosto. Sì, per Festa Ambiente sì, Festa Ambiente si svolgerà quest'anno dal 7 al 16 agosto, sempre nel Parco della Maremma, e quindi diciamo, però noi inizieremo già da giugno, sì, con le, sì, proiezioni nelle varie feste di Lega Ambiente, anzi inizieremo a maggio, a dire la verità, a Festa Ambiente Modena. A questo punto diamo dei riferimenti internet per tutta la ricca programmazione annuale. Sì, dunque il sito internet è www.festambiente.it e nella sezione dedicata al clorofilla in questi giorni fino al 15 aprile è presente anche il bando con la scheda di partecipazione per il concorso. Allora, le caratteristiche sono la tematica ambientale di fondo, insomma questa è la caratteristica di fondo per presentare dei lavori. Sì, ambientale e anche sociale, però, perché ci teniamo comunque a guardare l'ambiente sotto tanti punti di vista, non solo quello riguardante il rapporto uomo e natura, ma in una accezione diciamo un po' più ampia, che ci sembra quella più vicina al nostro modo di agire e di pensare, ecco. Benissimo. Allora Simonetta, ci si sentirà prima della tappa fondamentale del clorofilla, anche per gli altri appuntamenti in corso d'opera e che anticiperanno insomma il clorofilla, l'anima del clorofilla vero e proprio all'interno di Festa Ambiente. Va bene? Senz'altro, va benissimo. Un abbraccio, è sempre un piacere. A presto. Un abbraccio a te, ciao. Ciao ciao. Simonetta Grechi del Clorofilla Film Festival, sulla scadenza del bando di iscrizione che è, ricordo, mercoledì prossimo 15 aprile. Barry Lutz, controspionaggio, mi dica. Signor Lutz, potrò anche sembrarle un po' incoerente, ma quando le dirò la mia situazione credo che capirà il perché. Io mi chiamo Cornepet, sono dentista nella zona più vasta di New York, residenza a New Jersey. Sono un normale e patriottico cittadino americano. Io adesso mi trovo a Tiada. Sì, sono a Tiada, sì. Sono qui con un tizio che lavora per la CIA e il fatto è che mi ha coinvolto in un suo intrigo che riguarda un generale di qua giù. La mia vita è stata quasi sempre a repentaglio nelle ultime 24 ore. Mi sparano sempre e io sento che non ce la faccio più. Non voglio che sia questo avvocatucolo a difendermi. Non voglio essere difeso né da lui né da altri azzeccagarbugli. Io intendo difendermi da solo. Non ho intenzione di chiamare testimoni a discarico perché non ne esistono. Né io ho una linea di difesa. Non intendo controinterrogare i testimoni del signor Pagliaccio, certo del fatto che diranno tutti la verità e nient'altro che la verità. Non intendo chiedervi clemenza, comprensione o misericordia. Quello che pretendo, invece, è di avere giustizia. Siete stati voi a crearmi. Adesso uccidetemi. Esponete pure i fatti. Riempitevi la bocca di chiacchiere, purché colpevole alla fine sia il vostro verdetto. Ed eccoci di nuovo con Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso per parlare delle novità di questo mese di aprile. Paco, ben ritrovato. Sì, buongiorno a tutte e tutti. È sempre un piacere e ci sentiamo anche abbastanza di frequente. Cosa succede in questo aprile per Distribuzioni dal Basso? Sì, abbiamo diverse interessanti novità, per adesso ne abbiamo lanciate alcune che vi proverò a raccontare, ma in realtà ce ne saranno altre il lancio dopo la seconda metà di aprile. E per quanto riguarda appunto la prima metà del mese, anzitutto con molto molto molto piacere possiamo dire finalmente di aver accolto sul portale Strip Life, che era un documentario che appunto ci tenevamo molto ad avere in catalogo per migliaia di ragioni, soprattutto anche non solo per come viene raccontata la vita nella striscia di Gaza, per il taglio che viene dato quel film, ma anche per il modo in cui è stato realizzato, quindi attraverso le campagne di coproduzione popolare e tutta una serie appunto di strumenti e logiche che sono a noi affini. Per chi non lo conoscesse, appunto, Street Life è un film che è uscito alla fine del 2013, un film con una regia complessa di 5 persone e che appunto senza alcun secondo di intervista diretta frontale, ma solamente appunto seguendo questi personaggi che sono stati individuati nel film, racconta quello che è appunto una giornata tipica dall'alba al tramonto nella striscia di Gaza. È un film non solo molto ben fatto e molto interessante, ma è un film anche che ha vinto parecchi, ha avuto diversi riconoscimenti sia in Italia che all'estero, sia per appunto la storia che racconta, ma anche per il livello tecnico che ha raggiunto. Per cui per noi è stato veramente un piacere quando abbiamo saputo dai ragazzi che insomma erano pronti a entrare anche loro in questo network di distribuzione. Tra l'altro, Paco, sì. Noi li abbiamo sentiti anche più volte all'interno della trasmissione proprio su Strip Life e ci dicevano che il film è stato realizzato nel 2013 prima dell'operazione israeliana che ha praticamente raso al suolo e quindi tutta la striscia di Gaza, e quindi la situazione rispetto al documentario è completamente stravolta. E molti luoghi e persone non ci sono più. Esatto, sì, esatto. Purtroppo queste sono le notizie che arrivarono anche a noi, perché poi comunque gli autori li conosciamo già da prima di questo lavoro, quindi ci hanno sempre raccontato non solo un punto come è stato realizzato, ma poi anche tutti i vari aggiornamenti, soprattutto dopo appunto gli avvenimenti dello scorso anno. Purtroppo sì, sappiamo bene tutti, ahimè, che la situazione che si vive a Gaza è molto ben chiara, e per cui ecco, quello che è il dato è che sicuramente appunto questo lavoro è stato realizzato diversi mesi prima rispetto a quello che è stato l'attacco appunto dell'anno scorso. E poi invece vi segnaliamo anche un'altra uscita che riguarda invece l'altra metà del portale, che è la sezione dell'archivio storico che abbiamo aperto qualche mese fa. Questo mese appunto siamo riusciti a restaurare questo filmato molto molto interessante che si chiama Donne e Uomini delle Brigate Rosse, sempre fornito dall'archivio, come è stato qualche mese fa, dall'archivio personale di Bernardo Iovene. Ed è un mediometraggio, dura circa 40 minuti, dove al suo interno ci sono interviste a tutta una serie di ex brigatisti, tra cui appunto Prospero Gallinari. E la cosa interessante di questo filmato è che in realtà in origine questo filmato era stato commissionato a metà degli anni 90 dalla RAI, e che sarebbe dovuto andare in onda appunto per il ventennale dell'attentato, dell'omicidio di Moro. Non andò mai in onda, quindi finì in un cassetto, e appunto adesso grazie alla sezione archivio storico del portale siamo riusciti non solo a recuperarlo, ma a metterlo a disposizione gratuitamente degli utenti sul web. Bene. E questa sicuramente è un'operazione che noi fa molto piacere, non solamente perché continua la collaborazione con il giornalista Bernardo Iovene, ma anche perché la funzione di un archivio digitale deve essere anche questa: riuscire a recuperare filmati e documenti che magari per varie ragioni anche di natura politica sono rimasti chiusi in scatoloni e in cassetti, che non vedrebbero appunto la luce, non sarebbero a disposizione degli utenti se non ci fosse un lavoro diciamo di selezione e di recupero di questi materiali. Sì, sì, sì, sì. Bene, queste sono le due novità di rilievo per questo mese di aprile. E Paco, ci puoi fare anche delle anticipazioni rispetto alle prossime novità? Sì, ecco, sicuramente da un lato il lavoro dell'archivio storico sta proseguendo al di là delle nostre aspettative, sinceramente, nel senso che stiamo riscontrando diverso interesse anche da parte di altri archivi storici, perché inizialmente ci siamo concentrati soprattutto sull'area di Bologna, essendo che sì, la nostra sede è qui, però in realtà adesso stiamo allacciando relazioni con altri archivi storici di movimento sparsi per l'Italia, e quindi quella sezione inizierà a essere dalla metà di aprile in poi decisamente molto molto corposa. E poi tra le novità abbiamo, per sempre per aprile, abbiamo riprendiamo in catalogo un altro film di Francesco Di Martino, che è l'autore di Ustisso Sangue, che è un film che abbiamo già in catalogo, e il nuovo film che ha fatto uscire quest'anno si chiama Gleno ed è ambientato nelle comunità montane sulle Alpi Orobie. E un'altra cosa che invece volevo segnalarvi, oltre alla collaborazione o il continuo della collaborazione con Bernardo Iovene, faremo uscire altri suoi lavori dagli anni 90, e faremo anche una doppia iniziativa di supporto al film Qui di Gaglianone, che immagino conosciate bene, sì, che è uscito appunto da poco tempo, e organizzeremo due iniziative offline, una su Bologna e una su Brescia, tra aprile e maggio, per aiutare, diciamo, l'autore e tutto il suo gruppo a diffondere anche questo lavoro attraverso delle grosse proiezioni pubbliche, perché comunque in qualche maniera cerchiamo anche di sostenere quello che è il lavoro offline di distribuzione e di diffusione delle storie, ecco, non solamente quello, certo, che è il catalogo. Quindi si cerca un po' di fare un ragionamento sempre più a 360 gradi, ecco. Paco, in chiusura diamo i riferimenti internet? Sì, certamente, per chiunque volesse visitare il nostro sito è www.distribuzionidalbasso.com e appunto tutti i documentari e materiali che trovate sono l'accesso è garantito attraverso una donazione libera, proprio perché il punto centrale del portale è sempre stato quello di trovare una formula diversa di diffusione delle opere. Per cui appunto avete a disposizione non solo un catalogo di documentari che ormai ha raggiunto quasi 60 titoli, ma anche una sezione invece archivio storico con materiali di studio, materiali di movimento dagli anni 60 a oggi, che quelli che possono essere utilizzabili gratuitamente per motivi di studio, di ricerca e quant'altro. Bene, io ti abbraccio e ci diamo appuntamento alla prossima. Perfetto, grazie. Ciao Paco, ciao. A presto, ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità del mese. Il vecchio Bush è stato capace di mandare i Marines a Panama per catturare un uomo. Già, Noriega. Sai quanta gente è morta per cercare di prendere quel portoricano? Quel tizio ha lavorato per Washington un sacco di tempo. Non si sanno regolare. Non siete voi che vi cacciate. Sono io che vi condanno a rimanere. Senti, stronzetto, dopo un paio di drink un sacco di gente mi prende per una diciottenne. Sei un esperimento del creatore dell'universo. Sei l'unica creatura in tutto l'universo dotata di libero arbitrio. Sei l'unico che debba pensare a cosa fare dopo e perché. Proprio così, ma come facevi a saperlo? Tutti gli altri sono robot, macchine. Alcuni sembrano averti simpatia, altri ti odiano. E tu devi chiederti il perché. Non sono altro che macchine odiatrici e simpatizzatrici. Tutto questo ti ha esaurito e demoralizzato. Ed sono esattamente io, esaurito e demoralizzato. Sei circondato da macchine il cui unico scopo è sconvolgerti. Ed eccoci con il regista Andrea Segre. Ben ritrovato, Andrea. Ciao a tutti, buongiorno. Per parlare di prossimi appuntamenti che vedranno coinvolti tuoi lavori non solo cinematografici, al Piccolo Apollo qui a Roma, le date sono quelle del 9, dell'11 e del 14 aprile. Ce le illustri un po', Andrea? Sì, allora questa sera alle 8:30 con replica appunto sabato sempre alle 8:30. Il Piccolo Apollo ha deciso di riproporre un mio ormai un po' vecchio film, che è Io sono lì, con l'idea anche di invitare i cinesi che hanno partecipato al film e anche altri cittadini cinesi del quartiere Squilino dove il Piccolo Apollo ha sede, ma ovviamente anche italiani e di qualsiasi altra cultura e origine. Il film verrà poi replicato appunto venerdì. Questa sera ci sarò anch'io a presentarlo e poi dopo invece martedì 14 ci sarà la presentazione di un mio libro, non di un film, ma collegato anche a un film. Il libro si chiama Fuori rotta ed è una raccolta di diari di viaggio, sì, che ho tenuto tra il 99 e il 2009 in viaggi intorno alla Fortezza Europa, dai Balcani all'Africa, dall'Iraq alla Tunisia, dal Senegal al Kosovo, che ho messo insieme in questo libro che si chiama appunto Fuori rotta, che è edito da Marsilio e che è collegato ad un progetto, anche questo si chiama Fuori rotta, che vuole sostenere e ribadire l'importanza del diritto al viaggio. E lo presenteremo il libro insieme a Goffredo Fofi e Giulio Marcon martedì 14 alle 8:30 al Piccolo Apollo, e sarà anche l'occasione per lanciare una tournée che farò dal 17 aprile al 10 maggio in giro per l'Italia di presentazioni del libro, unite sempre alla proiezione di alcune immagini che ho realizzato durante questi viaggi. Alcune sono diventate dei documentari, tra cui anche Marghera Canale Nord. Infatti il Piccolo Apollo, dopo la presentazione del libro, sempre martedì sera, presenterà, riproporrà anche Marghera Canale Nord, che fu presentato proprio al Piccolo Apollo 12 anni fa, nel 2003. Quindi sarà un'occasione per ripercorrere dei percorsi di viaggio e di cinema documentario in un luogo importante per il cinema documentario italiano. Oh Andrea, stavo pensando, il tuo diario si occupa di riguarda un decennio, rispetto a quel decennio sono passati ancora degli anni. Come è cambiato, secondo la tua prospettiva, la Fortezza Europa in tutto questo periodo? La cosa interessante di questi diari, oltre ad essere così delle osservazioni personali e delle un percorso di crescita mio personale attraverso questi viaggi, raccontano proprio la costruzione della Fortezza Europa, cioè gli anni in cui l'Europa iniziava ad affrontare le migrazioni che si muovono verso il territorio europeo, costruendo misure di contrasto e di opposizione a questo flusso di movimenti. Questa fortezza è cresciuta molto e molte delle questioni che si aprivano in quegli anni sono ancora questioni molto aperte, e quindi la lettura di quei viaggi, di quei luoghi, di quelle storie è una lettura non soltanto per conoscere quei luoghi, ma anche per capire cosa ci è successo poi. E i popoli che invece sono spesso in viaggio e cercano di raggiungere queste frontiere? Beh, i popoli sono, sì, certamente sono cambiati, perché ad esempio buona parte, tutta la prima parte del libro sono viaggi verso i Balcani, in particolare verso l'Albania, sì. Ed è interessante notare come all'epoca di quei viaggi gli albanesi sembravano dei pericolosi invasori, esattamente come oggi possono sembrare gli africani o i siriani, ed improvviso poi dopo alcuni anni non lo sono più stati. Oggi gli albanesi possono viaggiare liberamente con una semplice carta d'identità verso l'Europa, e allora forse questa riflessione su invasori che poi non sono più stati invasori ci permette di capire di considerare in maniera diversa gli invasori di oggi. Oh Andrea, rispetto alla programmazione del Piccolo Apollo, va bene, ci hai dato anche i titoli che saranno in programmazione, ripeto, il 9, l'11 e il 14, e invece rispetto al tuo lavoro nello specifico e più in generale sul tuo cinema e sul libro che sarà presentato il 14, che riferimenti internet ci sono? Beh, il sito collegato al libro si chiama come il libro, che è www.fuorirotta.org, sì. All'interno del sito si trova anche il bando Fuori rotta, perché quello che abbiamo deciso insieme ai partner del progetto, che sono Montura Editing e Internazionale principalmente, poi ci sono anche altri partner minori come, però altrettanto importanti, come il Redattore Sociale, il Mad Film Festival, abbiamo deciso di lanciare questo bando per nuovi giovani viaggiatori. All'interno del sito si possono trovare appunto le informazioni per partecipare, per mandare dei progetti di viaggio fuori rotta, che sono dei viaggi che aiutano appunto a capire e a incontrare altri punti di vista, come quelli che ho fatto io in quel decennio raccontato nel libro. Si possono presentare dei progetti, lo possono presentare qualsiasi cittadino di qualsiasi origine culturale, però con meno di 30 anni. Il bando si apre il 10 maggio, quindi alla fine del tour di presentazione del libro si potranno inviare i progetti dal 10 maggio entro il 10 giugno. Tutte le informazioni si trovano appunto su www.fuorirotta.org. Ho considerato che hai dato delle scadenze, magari avremo modo di riparlarne. Mi farebbe molto piacere affrontare, spiegare un po' meglio qual è l'idea di questo bando e sperare che anche tanti ragazzi romani partecipino. Bene, Andrea, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Andrea Segre, per parlare dei prossimi tre appuntamenti che riguardano due suoi film e il libro sulle esperienze di viaggio all'interno della Fortezza Europa dal 99 al 2009, come abbiamo appena sentito. E questo era l'ultimo collegamento per quanto riguarda la puntata settimanale di Visionari. Vi ricordo che potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, ma anche dal sito internet, quindi in streaming dal sito della radio, che è ondarossa.info, perché sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. Per saperne di più sulla trasmissione, sul sito alla voce trasmissioni radio visionari trovate tutte le informazioni su questa puntata, ma anche più in generale anche sull'archivio. Per quanto riguarda la pagina Facebook, idem, la ricerca riguarda Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.